ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Questi capannoni a qualcuno hanno mai creato qualche preoccupazione? No, perché la nostra zona non era una zona sismica. Dopo 500 anni è venuto. Adesso noi vediamo che la speculazione edilizia anche dalle nostre parti è stata molto forte. E vediamo dei capannoni, delle case che hanno pochi anni di vita, che sono crollate come muri di paglia, ecco, loro così, vediamo. Che noi non siamo sicuri dove andiamo a dormire e non dove andiamo a lavorare. Il sole impietoso illumina la distruzione. Colline di macerie dove prima erano case, brandelli di muro al posto di chiese e campanili e poi una lunga drammatica successione di capannoni accartocciati su se stessi e sulle vite di nuovo dei propri operai. 13 delle 17 vittime stavolta, tra Medolla, Mirandola, Cavezzo e San Felice, nel cuore della bassa modenese. Il 20 maggio a morire per i crolli provocati dalla scossa erano stati anche 4 impiegati della Sant'Agostino Ceramiche. Piangendo le sue vittime, l'Emilia ha scoperto di essere terra di terremoti. Ma perché così tanti capannoni sono venuti giù? Effetto di una politica suicida sulle costruzioni, come ha tuonato il procuratore di Modena, che ha aperto una seconda inchiesta su questi morti sul lavoro, oppure questa è solo una polemica inutile, come ha ribattuto il presidente di Confindustria? A ciascuno il suo, questa settimana è un viaggio sofferente in una terra sfregiata e ferita. Ero sul Mazzone, io, tra Mirandola e Medolla ero. Quindi proprio nel centro del terremoto? Centro, sì, ero piano terra e avevo la porta aperta. Il bimbo è scappato fuori. Uscendo il bimbo si è chiusa la porta, io sono rimasta bloccata dentro, perciò le mura mi sbattevano di qua e di là. Quando sono uscita da lontano ho visto le case e le fabbriche andare giù, è stato terribile. L'ex Dara hanno detto che è crollata, la ginnasium è caduto un pezzo, la Gambra è crollata, la Belco è crollata, la Menù è crollata. Tutte fabbriche qui tra Mirandola. Tra Mirandola, Cavezzo e Medolla. In pochi chilometri sono uno dietro l'altro i capannoni schiacciati su se stessi, divenuti un pesante atto d'accusa per una terra che nella fabbrica si identifica. Novi, Rovereto, Concordia e poi Medolla, Mirandola, Cavezzo e San Felice. Eccoli tutti vicini, i paesi rimasti senza storia, sgretolata insieme alle pietre dei campanili, senza chiese crollate come il Duomo di Mirandola o la parrocchia di Rovereto costata la vita a Don Ivan. Eccoli i paesi rimasti pure senza lavoro, interrotto insieme alla caduta di troppi tetti. Potevano reggere con un terremoto di 5 gradi e 9? Erano fatti a regola d'arte quei capannoni così recenti eppure talvolta così drammaticamente accartocciati su se stessi? Sono le prime domande dell'indagine aperta dal procuratore capo di Modena, Vito Zincanna. L'attenzione si concentra però sul crollo di manufatti recenti e bisogna chiaramente sapere perché sono crollati. La magistratura non sta in questo caso mettendo sotto processo nessuno. Stiamo solo doverosamente accertando quali ragioni tecniche vi siano dietro crolli non compatibili con il livello di distruttività del terremoto. Fino alla scala di 5 e 9 i terremoti sono classificati come medi, non come forti. E accanto alla scala Richter compare possono creare danni solo a strutture non fatte a regola d'arte. Una domanda che Roberto, operaio di Rovereto, si ripeteva come un mantra, avendo ancora nelle gambe e nella testa tutti i fotogrammi della fuga dal suo capannone. Il capannone di fianco al nostro è crollato, sono crollate le pareti, il tetto non abbiamo fatto in tempo a vedere. Ma perché secondo lei i capannoni? Perché è venuto di una forza incredibile, troppo forte. Si muoveva tutto, saltavano, il tetto saltava sopra le travi di cemento che lo sostengono. Forza di saltare, poi non hanno più centrato le brasi e le travi sono tornate giù tutto. Se le travi di cemento fossero state legate ai pannelli, come si fa nelle zone sismiche, il tetto non sarebbe caduto. Davanti alla distruzione dell'emotronic di Medolla, piombata in una mattina di maggio sulle vite di 4 giovani operai, è il suono di una sentenza, questa prima analisi che un investigatore si lascia sfuggire. Quei brandelli di cemento ora sono corpi di reato di un'inchiesta complessa e dolorosa che dovrà mettere insieme la storia di questa come delle altre costruzioni, affiancarla alle norme esistenti su quell'area e soprattutto punterà a ricomporre gli ultimi 10 giorni per capire cosa sia successo dopo il primo sisma dell'Emilia. Avevamo fatto tutti gli interventi per tornare al lavoro in sicurezza, assicura Paolo Petri, manager della Meta di San Felice sul Panaro, crollata su 2 operai e su un ingegnere strutturalista andato lì, ironia della sorte, proprio per definire il collaudo. All'Emotronics di Medolla le verifiche le avevano firmate degli ingegneri chiamati dai titolari e questo lo sapevano anche i dipendenti, come racconta una veterana, Isa, che ora non riesce a scollare gli occhi da quelle rovine che erano la fabbrica dove lavorava da anni. Chi è che lo sapeva che veniva un terremoto così? Se ti danno l'autocertificazione, che ti dicono anche gli ingegneri che va bene? Proprio il titolare vi aveva informato delle procedure che erano state fatte? Sì, sono venute in ditta. Poi dopo siamo del nord, ci facciamo sulle maniche e partiamo. Cercavamo di tornare più alla svelta, alla normalità. Pian piano ritrovare il nostro lavoro sembrava quasi di trovare la normalità. È quello che ci ha fregato purtroppo, quello. Purtroppo il destino tante volte. La voglia di rialzarsi subito, la spinta a ritornare col lavoro ad una vita normale, il bisogno di riprendersi una fetta della propria identità in quelle fabbriche aveva convinto anche l'amministrazione a dare alle imprese la possibilità di autocertificare la propria messa in sicurezza. Forse invece sarebbe stata necessaria maggiore cautela, dice ora, parlando con Valentina Furlanetto, l'assessore alle attività produttive di Cavezzo, Maria Cristina Ferragutti. A molte di queste situazioni è anche vero che era stata data la possibilità di chiamare esperti che non rientravano nelle categorie, diciamo, nei percorsi istituzionali, che si accollavano ovviamente la responsabilità delle certificazioni di agibilità delle strutture, di sicurezza delle strutture, in relazione proprio alla necessità di far ripartire, accelerare la possibilità di lavorare. Questo secondo lei è stato un errore a posteriori? Viene da pensare che probabilmente occorreva muoversi forse con un attimo più di cautela. E così è stato un po' in tutti i comuni del distretto. A Mirandola, dopo il primo terremoto, su 5.055 richieste di verifica di agibilità, tra cui 1.040 dalle aziende, solo 170, veniamo a sapere, sono state eseguite direttamente da squadre comunali tra capannoni, case ed edifici pubblici. Il resto fu opera appunto di ingegneri chiamati dai privati e le loro documentazioni, se non sono perse sotto le macerie, saranno agli atti dell'inchiesta di Modena. Ora ci sono i sigilli intorno ai capannoni, ora è vietato entrare anche per pochi minuti, ora non bastano più quelle autocertificazioni, ma comunque stavolta non mi accontenterei più di una perizia di parte, ammette una giovane imprenditrice di Mirandola, Monica Cavazza, in fila davanti ai gazebo divenuti uffici per reclamare però che lei ha bisogno di riprendere subito. Devo avere il materiale per poter lavorare nel fine settimana, perché sennò è un problema. Seguiamo il settore sportivo e purtroppo adesso è il periodo più impegnativo per noi e non ci voleva. Questa volta c'è il divieto di entrare, quindi ho bisogno dei pompieri per andare dentro. E lei ha fatto fare già le verifiche sul suo capannone? Adesso ho fatto la richiesta adesso. Quindi aspetta che ci sia la verifica? Assolutamente sì, questa volta sì. La testa è mia, la vita è mia e la responsabilità sui dipendenti è mia. Perché invece l'altra volta com'era andata? L'altra volta sono venuti dei periti chiamati dal padrone del capannone e hanno detto che c'era l'agibilità, però non ho ancora nessun foglio in mano, quindi noi ci siamo fidati di loro. Però adesso basta. Cioè, quindi erano stati dei periti chiamati dai privati? Sì, esatto, periti chiamati che hanno detto sì, il capannone e la struttura è a posto, c'era un po' di confusione, abbiamo risistemato e ricominciato a lavorare. Però adesso, visto quello che è successo, non vi basta più questo tipo di... Assolutamente no. Ora che i morti, in pochi giorni, con i due terremoti, hanno superato le due decine, lo spirito di ripresa veloce del primo sisma ora non c'è più qui nella bassa modenese, come non c'è più neanche quell'idea di una bassa come di una terra estranea ai terremoti. C'è forse anche questo alle origini di quei crolli disastrosi? Lo pensa Ettore Sansovini, presidente del gruppo Villa Maria Settore Biomedico, che ha uno dei capannoni di fronte all'Hematronic crollata. Sicuramente era una zona non considerata sismica o comunque non così da considerarsi sismica in maniera importante. Il biomedicale qui è partito più di 30 anni fa, quindi i capannoni sono stati costruiti anche 35 anni fa. Ma alcuni sono anche molto recenti. I capannoni recenti sono quelli che hanno avuto minor danno. È chiaro che chi in seguito poi negli anni ha costruito nuovi capannoni li ha costruiti con attenzione anche all'antisismica, a quello che può essere la sicurezza. E per questo avete fatto anche l'assicurazione contro i terremoti? L'assicurazione contro i terremoti, diciamo che forse è un colpo di fortuna anche. Capire se i capannoni erano costruiti a regola d'arte, come dice il procuratore di Modena, capire cosa e quanto era stato fatto dopo il primo sisma. Ma c'è anche un altro interrogativo che ha aleggiato sopra quelle macerie che hanno schiacciato 17 persone. Ci furono pressioni sui dipendenti per convincerli a tornare al loro posto dopo il primo sisma? A ciascuno il suo. Cavezzo, sì, beh, il centro è devastato, quindi capannoni caduti, macerie e noi siamo qui, la terra trema ancora. Fumo dalle macerie, cemento a cadere. Gente che è rimasta sotto, soprattutto nei capannoni, perché la gente stava lavorando e è caduto tutto e la gente è rimasta sotto. A Cavezzo una donna è morta nel crollo del mobilificio Malavasi dove lavorava. Un'altra è stata salvata invece proprio dall'armadio di casa sua. Ore dopo la grande scossa è stata infatti estratta viva dalle rovine. Ma nella geografia del sisma questo paesino di chiese del Cinquecento e stradine un tempo accoglienti è tra quelli ora più colpiti e in viaggio tra questa campagna piatta, un tempo rassicurante proprio per la similitudine e la ripetitività dei suoi scorci. Sembra quasi una beffa ora vedere tutti in piedi i cartelloni pubblicitari del mobilificio invece crollato, come la libreria di una casa ora sotto lo sguardo di tutti, ora che la facciata è venuta giù del tutto. L'Emilia scopre così drammaticamente di essere terra di scosse anche forti e si ricorda di aver lasciato costruire invece capannoni senza particolari vincoli antisismici, come ammette Stefano Foschieri, amministratore delegato di Euroset, azienda del biomedicale che si trova proprio di fronte al capannone crollato sugli operai a Medolla. La nostra fabbrica ci ha salvato la vita. 130 operai sono usciti, non ci sono stati, c'è stato un lieve ferito, roba minima, quindi il guscio ci ha protetto. Certo è che, come si può vedere, tutti i pannelli si sono spostati, la fabbrica non è assolutamente agibile, non possiamo prendere ciò che vi è all'interno, soprattutto le attrezzature, che sono attrezzature uniche per la produzione dei nostri device, che sono in modo particolare ossigenatori, polmoni artificiali per intervento a cuore aperto. Il vostro capannone ha retto. Ecco, ma i vostri capannoni sono che tipo di vincoli per le costruzioni hanno? Come da zona sismica, oppure considerando che qui non c'era un terremoto da secoli, non hanno questo tipo di obblighi? Ha già risposto lei alla domanda, qui non c'era obbligo di un capannone antisismico, la fabbrica è stata inaugurata, è stata costruita nel 2005 senza l'obbligo dell'antisismica, ma come vede è come se fosse stato un capannone antisismico, perché nella sostanza ha retto. Certo è che due terremoti del sesto grado della scala Richter ripetuti a distanza di una settimana, le ferite sono evidenti anche nella nostra palazzina. Ecco, però di fronte alla vostra c'è poi la fabbrica che è crollata con gli operai sotto. Col senno di poi, quel ritorno così veloce è stato un po' affrettato? Tutte le aziende, perché io ho parlato con parecchi imprenditori del territorio, sono state fatte delle verifiche accurate. Che tipo di controlli avete fatto? Noi abbiamo fatto dei controlli strutturali con uno studio di ingegneri abilitato alla verifica di questi capannoni, ma non ci siamo contentati. Prima di rientrare abbiamo teso l'ingegnere della Protezione Civile. Oggi questo terremoto ha rappresentato soprattutto per voi il rendersi conto di stare in una zona sismica. È da qui che bisogna ripartire, la mappa è completamente cambiata, siamo sicuramente in una zona, io la definisco ad alto rischio. In questo momento io sto pensando all'eventuale ricostruzione della nostra Euro-SED, non più su due piani ma su un piano solo con struttura antisismica, perché come vedete le strutture basse sono quelle che hanno retto meglio di tutte. Di fronte a noi abbiamo altre due fabbriche, la prima costruita un anno prima di Euro-SED e ha le stesse ferite di Euro-SED, la seconda inaugurata sei mesi fa, antisismica, ha retto benissimo all'impatto delle due scosse che ci sono state, quindi questo è un chiaro ed evidente modo e sistema che dovremo utilizzare per ricostruire le nostre aziende. Lei sa da quanto tempo c'era la Eurotronic? L'Emotronic qui è un'azienda che è stato questo capannone un paio d'anni fa da un'altra azienda ed è un'azienda storica nel distretto. Ma il capannone? Oh, il capannone è il capannone precedente dell'azienda che ha venduto, poi non le so dire che opere sono state fatte all'interno prima di entrare, però quello che le posso dire è che da vedere esternamente la fabbrica era in perfetto ordine e so che quando sono entrate hanno fatto una manutenzione accurata, anche perché avevano avuto dei danni da sciacallaggio in quanto avevano portato via rame, avevano portato via tutti i cavi elettrici, eccetera. Quindi, quando voi avete costruito i vostri capannoni, appunto, ci ha già detto, non c'erano vincoli, quindi no, non c'era il vincolo, non eravamo in zona sismica, di conseguenza nulla ci è stato chiesto. Per esempio ci dicevano che molte zone sismiche sono legati tra loro i pannelli, le travi, il tetto, e questo ad esempio alla Emotronics avrebbe significato che forse non ci sarebbe stato il crollo. Anche questo a voi non è stato chiesto, non è un vincolo. Non era un vincolo, usiamo il passato, non era un vincolo, lo sarà per il futuro a questo punto necessariamente, non possiamo fare diversamente, ora che sappiamo i danni che può creare un terremoto di magnitudo 6. Ora tutto cambierà in questa zona, anche se per il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, quella sui capannoni è una polemica artificiosa. Ora, anche e soprattutto nelle zone industriali, nulla sarà più come prima nella ricostruzione. Sulle macerie dei capannoni, però, ha aleggiato anche un altro fantasma. Stanno lavorando. Stanno lavorando anche dopo il secondo terremoto? Sì, non lo sanno che fine fanno, se uno c'ha paura di perdere il posto e se non va a lavorare va a perdere il posto. Come Hamed, operaio che abbiamo incontrato a Mirandola, anche un altro, Andrea, dipendente di una ditta di San Felice, raggiunto da Valentina Furlanetto e altri ancora, hanno denunciato pressioni per rientrare in fabbrica. A molte persone sono state fatte delle pressioni psicologiche per ritornare al lavoro, io compreso. Lunedì io sono dovuto rientrare nella ditta dove lavoro, una ditta di materie plastiche che stampiamo gli interni di Ferrari, Maserati e Lamborghini, e sono dovuto rientrare a lavorare in condizioni proprio di gente che dormiva nelle tende, insomma una cosa da bestia. E martedì praticamente alle 9, mentre eravamo lì a lavorare, è venuto appunto il secondo terremoto, che io sono fuggito con tutti i miei colleghi di lavoro mentre cadevano i calcinacci e lateralmente si aprivano delle crepe nella fabbrica, e ieri sera ci hanno telefonato per rientrare a lavorare. Tutti abbiamo detto che a lavorare ci va lei, praticamente gli abbiamo risposto al nostro titolare, e lui ha detto che ha fatto dei controlli privati. Voi non vi fidate di questo? Assolutamente no, perché poi tra l'altro ieri pomeriggio ho sentito quei poveracci che sono rimasti sotto le macerie, erano dite che non ne avevano visionati i vigili del fuoco, erano stati fatti dei controlli privati. Noi siamo stati già lunedì scorso 21, sono rientrate delle persone a lavorare nello stabile che non era neanche stato controllato ancora. Lei è di Finale Emilia. Sì, io sono fuggito con la mia famiglia a 200 km dal sisma nella Riviera Adriatica, praticamente siamo fuggiti. Io ho anche due figlie, una tra l'altro piccola. Appena sentiamo anche, non so, una macchina che frena, così saltiamo, scattiamo tutti come delle molle. Cioè, siamo costretti anche io e mia moglie a dormire, a prendere le gocce prima di andare a letto. Il titolare l'ha chiamata e cosa le ha detto? Dovete venire a lavorare perché la fabbrica non ha niente. Addirittura mi ha fatto, la prima volta che mi ha contattato, che sono rientrato un discorso, ho fatto anche una battuta sul fatto che sono venuto al mare, cioè io come se fossi venuto al mare in vacanza. Gli imprenditori smentiscono, come tutt'altra è la versione anche del sindaco di Mirandola, Maino Benatti. Qui molti operai sono stati loro a spingere anche in modo convinto gli imprenditori a riprendere, perché volevano salvarsi il posto di lavoro, giustamente. E la stessa cosa vale per imprenditori che in tante altre occasioni hanno detto, ho sentito io dire da loro, abbiamo pianto i primi 5 minuti e poi ci siamo rimboccati le maniche. Questo è l'atteggiamento. Con così tanti morti e distruzione, anche tutto questo diventa ora una nuova ferita in una terra sfregiata, in attesa che l'inchiesta vada avanti e all'Emilia colpita dica se per quei morti ci siano anche responsabilità umane o solo fatale violenza della natura. A ciascuno il suo, termina qui. Vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it nella sezione podcast, oppure ci trovate direttamente su iTunes. Siamo anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce, mentre su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a sabato prossimo.